giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchissi. Un giorno dopo l'altro il tempo se ne va. Quella che stiamo per raccontare non è una storia di nera qualsiasi, perché il protagonista di questo racconto è uno dei più apprezzati cantautori, intellettuali e poeti italiani, Luigi Tenco. Luigi Tenco nasce a Cassine, in provincia di Alessandria, il 21 marzo 1938. Trascorre i primi anni della sua vita tra Cassine, Maranzana e Ricaldone, paese nativo della madre. È il 1948. La famiglia Tenco si trasferisce in Liguria. A Genova, nel 1951, si iscrive al liceo classico per poi passare al liceo scientifico. Con alcuni amici dà vita a vari gruppi musicali, con un repertorio per lo più composto da musica jazz e dai primi esempi di rock and roll. Luigi suona clarinetto e sax. Jerry Roll Morton Boys Jazz Band, i Diavoli del Rock, il Modern Jazz Group, Trio Garibaldi. Sul finire degli anni 50 si esibisce al Santa Tecla di Milano con Gaber, Iannacci e Reverberi e alla Piccola Baia di Genova. L'esordio discografico giunge nel marzo 1959. Da quel momento sono decine i successi commerciali ottenuti con le case discografiche Ricordi, Joker e RCA. Impossibile elencare ciò che ha interpretato o composto. Ragazzo mio, un giorno dopo l'altro, se qualcuno ti dirà mi sono innamorato di te, vedrai, vedrai, lontano, lontano, fino all'ultima ciao amore ciao, dedicata alla cantante italo-francese Dalida. Le sue canzoni diventano poesie, le parole hanno tinte forti e raccontano un mondo che sta cambiando. Luigi Tenco avverte questa trasformazione radicale della società e la fa propria. Uno può avere i capelli lunghi, corti, a metà, verdi, gialli, rossi, questo non lo dire. Meno così la penso io e penso che sia un modo giusto di pensarla, per me. Anzi, questa cosa, ho fatto una canzone su questa cosa, nella quale appunto sostengo che ognuno è libero di comportarsi come gli pare. Luigi Tenco giunge al Festival di Sanremo, prende alloggio all'Hotel Savoy, camera 219. A Sanremo ci arriva in treno, da Roma, via Milano, dove è raggiunto in aereo, a Genova. La sua auto, una Giulia Verde, resta a Roma. La vigilia del festival scorre tra i consueti rituali, raffiche di fotografie scattate accanto a Dalida, chiacchiere con gli ammiratori e qualche autografo. Ma la sera, quando arriva il suo turno, il presentatore Mai Buongiorno deve spingerlo in scena. Sembra che abbia bevuto un'intera bottiglia di grappa e assunto qualche pasticca di Pronox, il cocktail che ne esce, micidiale, restituisce al palcoscenico Tenco stravolto, svuotato di energie, con i riflessi spenti. La sua canzone, Ciao amore ciao, si classifica alla fine al 12° posto, con soli 38 voti dei 900 disponibili. Il verdetto potrebbe essere neutralizzato dalla commissione di ripescaggio presieduta da Ugo Zatterin, il quale, forte della sua posizione, spinge per il brano interpretato da Gianni Pettenati, La rivoluzione. Il giornalista Lello Bersani e il regista Lino Procacci, membri della commissione, si dimettono indignati. Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare. La versione ufficiale parla di suicidio. Nella notte del 27 gennaio 1967, nella camera 219 della dependenza del Savoy, Tenco si spara un colpo alla testa. Scrive: io ho voluto bene al pubblico italiano, gli ho dedicato inutilmente 5 anni della mia vita. Faccio questo non perché sono stanco della vita, tutt'altro, ma come atto di protesta contro un pubblico che manda Io, tu e le rose in finale e a una commissione che seleziona La rivoluzione. Spero che serva a chiarire le idee a qualcuno. Ciao, Luigi. Così commenta Lello Bersani la morte di Luigi Tenco. Non è passato molto tempo da quando è successa la tragedia qui alla Terza Voglia ad Altare di Parro. Non avrei mai immaginato di avere un'esperienza del genere ad un festival della canzone. Non si può arrivare a questo punto. Tenco con il suo gesto ha dato uno schiaffo a tutto un mondo. No, non è perché è stato escluso, perché la sua canzone non ha vinto. È qualcosa di più profondo, indubbiamente, ma non sta a noi giudicare. Questo gesto assurdo condanna tanta gente, condanna tanti di noi. prima di partecipare a quell'edizione del 67 del Festival di Sanremo, Luigi Penco rilascia una dichiarazione che ha il sapore di testamento. Ho sempre imboccato la strada sbagliata. Sbagliai quando mi illusi di diventare ingegnere, a casa mia non c'era una lira. Sbagliai quando mi misi a scrivere canzoni e quando mi illusi di fare un mestiere. Ho sbagliato pure adesso a venire a Sanremo. Le sue sono parole dure come pietre, che non ammettono interpretazioni. Chiedersi perché non si scrivono tutte canzoni così romantiche, senza andare a toccare tasti che forse in una canzone non è il caso di toccare. Ma non ho fatta questa domanda, ma il fatto è questo. Che sui giornali, alla televisione, alla radio, si leggono oppure si vengono a sapere cose, fatti che suscitano in un individuo determinate reazioni, come io sono individuo, gli altri, per cui anche in me suscitano queste reazioni. E siccome sono un compositore, queste reazioni finiscono per poi essere intrecciate in una canzone. Aldo Fegatelli è autore della biografia più diffusa su Luigi Penco. Alle prime due edizioni, Lato Side dell'82 e Muzio dell'87, si è aggiunta la terza, Luigi Penco, vita breve e morte di un genio musicale, Mondadori 2002. Il lavoro dello scrittore contiene però novità, tanto che da pochi mesi l'inchiesta sulla morte di Penco si è riaperta proprio sulla base di un'analisi dettagliata del fascicolo giudiziario. I punti sono le discrepanze che escono fuori dalla lettura del fascicolo giudiziario. Per molto tempo, per molti anni, noi ci siamo attenuti al detto, a una sorta di tradizione orale molto minimalista, per cui si è ucciso e basta. Leggere questo fascicolo giudiziario ci ha aperto le porte di tantissime incongruenze, di tantissime cose che, per usare un brutto termine, fanno roba a cazzotti con la realtà, con l'evidenza. Sul caso Penco l'inchiesta è riaperta. Il procuratore di Sanremo, Gagliano, è di poche parole, sa che per mettere la parola fine ai misteri sulla morte di Penco sarebbe sufficiente una sua firma, ma è scrupoloso. Non vuole disporre la riesumazione della salma e quindi l'autopsia, senza che prima non si sia fatto tutto il possibile per far venire alla luce la verità di quella notte. E allora, proviamo a comprendere quali sono i punti rimasti oscuri sulla morte di Luigi Penco. Lo scrittore Aldo Fegatelli Colonna è autore anche dell'esposto con cui la magistratura ha riaperto l'inchiesta a carico di ignoti con l'ipotesi di reato di omicidio. Allegato al fascicolo giudiziario c'era tutta la sequenza fotografica del corpo di Penco. Penco era innanzitutto destrorso, non era mancino. Il colpo di ingresso è posto praticamente a sinistra, contrariamente a quello che si era pensato e che avevamo letto. Ora, se uno non è mancino, non fa delle acrobazie, se sta... Chiaramente ti sto dicendo tutte queste cose dopo essermi consultato con anatomopatologi, avvocati, medici e quant'altro. Quindi dopo essermi fatto una piccola cultura in merito. Noi vediamo nelle foto un corpo con una camicia slacciata sul torso, con una canottiera, che è assolutamente intonsa, è bianca, una cosa assolutamente fuori dalla normalità. Nella ricognizione che abbiamo fatto, dopo aver intervistato i giornalisti, le persone che erano entrate in quella stanza, Penco viene trovato ogni volta in una posizione differente da quella precedente. È vero che quando il teatro di morte, dell'omicidio presunto, eccetera, viene visitato da parecchie persone subito dopo il fatto, si tende a spostare un oggetto, a spostare il corpo, eccetera. Ma questo praticamente ha impedito qualsiasi tipo di ricognizione corretta su quello che era successo. Penco viene trovato, viene fotografato con le gambe quasi fino al ginocchio sotto un cassettone. Inoltre, una delle tante cose importanti che è doveroso dire, un giornalista del Corriere della Sera di allora trovò nelle mani di Penco una beretta 22. Sono in molti a pensare che quello di Luigi Penco non sia stato un suicidio. Renzo Zanardi è autore di un saggio che ha messo online che si chiama L'affare Penco. Da sempre sono convinto che Penco non si sia ucciso. Oggi, soprattutto dopo la trasmissione televisiva Enigma e Domenica In, sono sempre di più coloro che la pensano come me. Credo che per uccidere una persona sia necessario avere almeno un movente. In questi pochi minuti tenterò di indicarne uno. Tenco in quegli anni era sicuramente un cantautore atipico, socialmente impegnato e con un progetto coerente. Era definito un contestatore, fortemente convinto che la protesta musicale italiana fosse finta e depistata su falsi obiettivi, tipo mettete dei fiori nei vostri canoni, eccetera. Il suo pensiero sull'argomento Tenco l'espresse chiaramente ad un gruppo di giovani nello studio di B72. Pochi giorni prima della sua morte disse: parlagli del divorzio, della mafia, di altre faccende che scottano e allora vedi che la gente si arrabbia e ti dà addosso. Sempre pochi mesi prima di morire, a Radio Monte Carlo, disse al collega Herbert Pagani: protesta chi si espone, chi rischia, non chi dice cose ovvie che vanno bene a tutti, levati matti, si intende. Tenco andò a Sanremo con una canzone che non parlava di cose ovvie, infatti Ciao amore ciao, parlava dell'alienazione metropolitana figlia dell'emigrazione. Tenco perciò sapeva anticipatamente di esporsi e rischiare. Quando arrivò la notizia dell'eliminazione, capì che gli avevano dato addosso e combinato l'esclusione. Tenco, vista l'arroganza del potere, decise di ribellarsi attaccando. Infatti sono molte le fonti che sostengono che Luigi fosse deciso a denunciare le convin e le scommesse clandestine che ruotavano intorno al festival. Che attorno al festival ci fossero scommesse clandestine in grado di condizionare i risultati, lo ha confermato solo pochi giorni fa alla trasmissione televisiva Domenica In anche il dottor Arrigo Molinari, che in quegli anni era il commissario di Sanremo. Voglio proporvi un ragionamento che possa farci capire meglio perché Tenco potrebbe essere morto. Se la notte del 27 gennaio Luigi non fosse morto, molto probabilmente il mattino successivo avrebbe convocato una conferenza stampa, denunciando dettagliatamente tutte le combine sanremese. Avrebbe fatto notare che le scommesse clandestine erano in grado di determinare anche i finalisti, altrimenti come spiegare che la giuria di esperti ripeschi la rivoluzione e scarti Ciao amore ciao? Provate ad immaginare se questa denuncia fosse stata rilanciata da tutte le più importanti testate giornalistiche ed emittenti radiofoniche e televisive nazionali e internazionali presenti al festival, soprattutto dopo l'eliminazione di una star internazionale come Dalia. In questo contesto l'iniziativa di Tenco avrebbe danneggiato gli interessi di molta gente e probabilmente distrutto il festival. Un giorno dopo l'altro il tempo se ne va.